mattina io mi accorgessi che con l'alba sei partito, con le tue valigie verso un'altra vita, riempirei di meraviglia la città, ma forse dopo un po' prenderei ad organizzarmi l'esistenza, mi convincerei che posso fare senza, chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua. Capissi che non stiamo più parlando, ti guardassi e non ti conoscessi più, io dipingerei di colori muri e stelle sul soffitto, ti direi le cose che non ho mai detto. Lascio più.